Riccia, là. Vabbè, sono amici di Bagnini. Buonasera, salve, sono amici di Bagnini. E voglio ringraziare tutti gli amici di Facebook. Adesso vi darò la linea alla signora Filicetta, che sarà che darà la linea erotica. Se che, allora, beh, spero che sarà di vostro gradimento. Ciao. Ti hanno cure mani. Ti hanno cure mani. Guarda una poco che essa, che è sempre in ritardo. Cane insomma la trasmissione, felice di buono, amo. E che vuoi scattare? Mi stava attropicando sullo scavone. E un attimo, Maro, che mi stai tagliando venire i pieve. Così prendiamo uno spreggio con un rimbalzo. Ma fatta con le cazzo, amo, vediamo che siamo già in diretta, mo, fate mo. Sì, mi nonda. Buonasera, cari amici allupate e pieni vestiti. Signor Felicetta, un numero sapete, facciti chiamati con l'addebito. Via pure. Via sapete pure, chiaro. Cattando tutti i soldi per bere spugna. Allora, vediamo chi ne c'è in linea. Vai! A prima telefonata! Pronto, Felicetta, ricordi? Segnami lei rocca pesciata! In rocca pesciata? Allora sei un nobile! Oh cazzo, faccio contadino! Segno stato a 2077, sta ricordi! E se mi verrà a dire costa tutti i clienti i rucatananni trent'anni a gita mo i postava a ruscire i records. Eravamo bene ricchi. Cos'è che te l'avevo chiedere? E se vengono pronti per fare un vagilecca, una cosa è asciuta no? Ecco, ma chi non ti sei vista Maurizio Paradise? Batto mille bolle bolle bille se questi prodotti e bida te tiene. Un'idea ti sei provato. E poi se ti trovi a casa, reggi, non mi hanno già telefonato, pillatemi di morte. Banda. Chi ne sei? Io sono Amalia. Amalia, amo capito, eh. Senti, io volevo un consiglio. Insomma, io non lo so se si sente, io sono un po' che... Aspetta, giro un altro volta il foglio come prima. Sì, infatti non si sente proprio, compa, proprio manco uno ci pensa. Chi ti serve, figlio? Io sono fidanzato da 4 mesi con te. Ma un po' di vedere come lo vedi che hai Zumbo, ha scritto. Giorgi Zumbo. Ma boh. Non è che si chiama Zumbo. Ma boh. Comunque vado a fare quello che ha scritto in scena. Veramente. Detto wea. Hai Zumbo. Lui vorrebbe una prova d'amore, ma io ho paura. E vabbè, a posto che già si è fidanzato con un iPhone, ma chissà, un'altra cosa. Hai capito? E beh, ti farà male, perché ti piace da riete. Io lo posso tu essere dal notaio e mi assicurerei il poppo. Oppure, vai a procavo, tagliate, tipo un leasing. Comunque, chiudete male in questo bel vestito di cazzo. E passa, ma lui sta mandando la telefonata, cara, dice, attacca curva proprio col sender, pronto. Pronta, buonasera, vale. Buonasera. 2 margherite, 1 capricciosa e 1 4 stagioni. Comba, ma chi ne te credi che essa? Che sta contando? Pronto, ma non è spedi pizza? Tu facessi abita io spedi pizza, te migni tanti che scaffi che pare che sei stato... Sopo lo tagavac, ha capito? Anzi, minza lo tagavac e fa un cretino che può cara minzi i mignoni di quaciarino. Oh, ma se pizzi fa o no? Fazzi pizza la avessi su questa. Allora, concludiamo la serata, cari amici bufalosi e rapati, mano alla sacchetta, vi saluto che i clienti aspettano.